Non ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. È proprio vero, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, non ci sono più le mezze stagioni, ce lo ripetiamo ogni sabato qui dalle 14 alle 15, però ci sono costantemente elementi di conferma. Per esempio, anche gli asciugamani non sono più quelli di una volta. Questo ci dà proprio l'idea delle stagioni che cambiano e appunto saltano e non ci sono più quelle mezze, no? Sappiate che al Senato, una volta gli asciugamani, cioè, quanto può costare un asciugamano, no? Un asciugamano, basta che non sia una roba proprio di quelle coi brillanti, insomma, abbordabile, no? Invece pensate che al Senato in questi giorni sono stati costretti, in particolare nelle stanze della presidenza di Palazzo Giustiniani, sono stati costretti a comprare 50 asciugamani deluxe a la modica cifra ciascuno, cada uno, di 88 euro. Non ci sono più gli asciugamani di una volta. Ed eccoci insieme fino alle 15. Quali sono le vostre opinioni sui fatti della settimana? Quale avete scelto? Che cosa avete in mente? Qual è la notizia che vi ha colpito sulla quale avete voglia di tornare? Lo sapete che è il vostro spazio libero per le vostre libere opinioni. Qua non ci sono più le mezze stagioni. Avete tempo sino alle 15, ma pensateci un po' prima, perché gli interventi sono tanti e le cose da dire sono tante. Vi ricordo il numero verde 800 24 0024, numero verde 800 24 0024, e come sempre, chi mi ascolta ormai da tempo lo saprà, io devo avere un mio opinionista estemporaneo ogni volta. E oggi, attenzione signore e signori, Gianni Barbacetto. Buongiorno. Caro Gianni, Gianni è giornalista e collaboratore di Repubblica, ha lavorato al Mondo, all'Europeo, a Diario, scrive per Micromega, dirige Omicron, che è l'osservatorio milanese sulla criminalità organizzata al nord, e ha pubblicato questo libro Se telefonando. Non si rifà alla canzone di Mina, per la quale penso tu abbia una certa passione, però Gianni. Ma sì, non è male. Scritta da Costanzo. Le parole sono di Maurizio Costanzo. Vero? Sì, sì, sì. Il titolo è stato scelto evocando quella canzone, certamente. Ecco, però il romanticismo subito lascia spazio invece al sottotitolo, che dice chiaramente quali sono le intenzioni, l'obiettivo, il contenuto di questo libro pubblicato da Melampo: Le intercettazioni che non leggerete mai più. Sì, è un'antologia delle grandi intercettazioni della storia italiana, diciamo. Partendo più o meno da... degli ultimi dieci anni. No, sì, sì. Quelli che hanno fatto più scalpore, sì, da quando si è cominciato a parlare di intercettazioni, esatto, con una certa insistenza. Ce n'è qualcuna degli anni Ottanta, ma proprio un paio di esempi. Le altre sono molto recenti e sono l'esempio di... che cosa si è venuto a conoscere della storia di questo paese grazie al metodo dell'intercettazione telefonica, che è un metodo raffinato e molto efficiente per riuscire a fare indagini giudiziarie. Senza le intercettazioni telefoniche le indagini giudiziarie oggi non si potrebbero fare, esattamente come non si potrebbero fare le diagnosi mediche senza la TAC o senza le radiografie, senza la risonanza magnetica, queste cose qui. Ecco, le intercettazioni sono come la risonanza magnetica, come la TAC. Oggi un medico non può stare senza la TAC e quindi, diciamo, I pazienti hanno un beneficio da questi strumenti, e così secondo me i cittadini hanno un beneficio dal fatto che esistono le intercettazioni telefoniche, perché i mascalzoni che fanno reati possono essere più facilmente incastrati grazie alle intercettazioni telefoniche. Senti, mi vengono in mente adesso molto velocemente, a parte i furbetti del quartierino, quindi le scalate alle banche, poi viene in mente Calciopoli, puoi citare altre due o tre casi? E sono tutti esempi che sono dentro il libro. Ci sono alcune intercettazioni bipartisan, devo dire, di personaggi di destra e di personaggi di sinistra. Nella storia dei furbetti del quartierino c'è Calciopoli, c'è poi una vicenda a cui io tengo molto, perché non c'entra la politica, non c'entrano i VIP, non c'entrano, ma c'entra la povera gente, la gente comune che senza saperlo andava ad una clinica di Milano, la clinica Santa Rita, e veniva massacrata da medici senza scrupoli che addirittura li seni divelti, polmoni strappati per fare cassa, diciamo, operazioni chirurgiche di cui non avevano bisogno. Qualcuno ci ha anche perso la vita. Un caso mostruoso, qualcuno dice che sia solo la punta dell'iceberg, però insomma. E solo grazie alle intercettazioni sono emerse queste vicende, altrimenti non ne sapremmo nulla. Bene, insomma, allora abbiamo capito che cosa ha scritto Gianni Barbacetto, e invece quali sono le vostre opinioni sulle notizie di questa settimana? 800 24 00 24. Vogliamo come sempre anche così ascoltare un punto di vista, un'angolazione da un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Riaffacciamoci dunque su questo pazzo mondo. E mentre la comunità internazionale fa pressione sull'Iran affinché metta in soffitta le sue inquietanti ambizioni nucleari, la vera emergenza dell'Iran è un'altra. La vera emergenza dell'Iran, signore e signori, è quella in realtà dei manichini sexy nelle vetrine. La Polizia per la Morale Islamica ha infatti ingaggiato una caccia senza quartiere, anzi un po' in tutti i quartieri, contro i manichini giudicati troppo provocanti che ammiccano perturbanti dalle vetrine dei negozi. Non sarà tollerata, avverte la Polizia Islamica, l'esposizione di manichini con forme sconvenienti né con il volto truccato. E pensare che in Italia in molte giunte di comuni, di province, di regioni ci si potrebbe anche accontentare anche solo di vedere seduti accanto agli uomini che si occupano sempre tra loro dei massimi sistemi, ci si potrebbe accontentare di vedere, dicevo, almeno seduti nelle amministrazioni dei manichini a forma di donne, magari con un cappello di piume, della lingerie ad hoc, visto che di donne, come nella giunta della provincia di Taranto, ma anche in quella di Ascoli Piceno e tante altre, non ce n'è nemmeno l'ombra di donne, non ci sono in carne ed ossa. Mettiamo almeno dei manichini femminili che li ricordino, no? Che facciano sembrare che gli uomini una qualche rappresentanza femminile la gradiscono accanto a loro. Magari piuttosto taciturna, decisamente statica, ma insomma sempre meglio di niente, no? Può essere un buon suggerimento, a dire la verità, anche per il Parlamento italiano. Nel frattempo, mentre facciamo queste disquisizioni da Marte, il pianeta Terra, lo sapete, va in riserva. Sì, perché gli scienziati lanciano in questi giorni l'allarme e dicono che gli umani hanno già consumato il capitale di risorse disponibile per il 2009. E che sarà mai? Insomma, non esiste forse il credito al consumo. E poi domani è un altro giorno, si vedrà. Gianni, allora, mentre tra pochissimo c'è Franca da Firenze, che vorrei sentire al numero verde 800 24 00 24, cosa ne pensi del Nobel che qualcuno ha proposto, Nobel per la pace per Silvio Berlusconi? Ah, caspita, cominciamo subito con domande. Ma non so, per quale meriti, non ho capito. Probabilmente ci starebbe un Nobel a Silvio Berlusconi per la faccia tosta con cui va in giro per il mondo a fare figuracce. Allora, io direi che è veramente un vero Nobel, no? Le corna fatte al primo ministro, eccetera. La gaffe fatta nei confronti dell'importante politica finlandese. E poi decine, anche Obama, l'urlo lanciato dietro. Insomma, l'Angela Merkel fatta aspettare mentre lui doveva finire la telefonata durante un incontro ufficiale. Ecco, devo dire che meriterebbe il Nobel. Insomma, comunque per qualcuno lo merita, poi sentiamo anche gli ascoltatori e le ascoltatrici cosa ne pensano, e direi che alcune motivazioni ci sono in questo inno che una signora, una donna ha scritto apposta per lui. Sentiamo. La pace tua, guarda anche tu, l'Abruzzo si risveglia incredulo, la neve e il sole che si incontrano. Questo è un estratto, ecco, di questo inno. Cosa ne pensate? 800 24 00 24. Cominciamo a sentire le voci delle ascoltatrici e degli ascoltatori. C'è, dicevamo, Franca da Firenze. Franca. Sì, pronto. Buongiorno a te, Franca, però devi proprio spegnere la radio, abbassarla completamente. Sì, se no sentiamo tutto il riverbero. Volevo sapere sulle intercettazioni, sì. se non mi sbaglio, la memoria non mi inganna, quando c'era il governo Prodi furono bruciate tantissime ore di intercettazioni perché ledevano la privacy dei cittadini e furono bruciate nelle 24 ore. Per quale motivo poi non, ora che c'è Berlusconi non si fa più? Allora Franca, ti ringrazio della domanda che giro subito a Barbacetto, che lui è l'esperto, anche se premetto subito che sapete che l'opinionista estemporaneo che scelgo ogni settimana è diverso, di opinioni diverse, di ambiti diversi. Del libro io parlo 3-4 minuti, poi si parla delle notizie della settimana. Ecco, questo delle intercettazioni è l'argomento del libro di Barbacetto, ma noi parliamo dei fatti di questa settimana. Comunque vabbè, visto che c'è la domanda di Franca, grazie Franca. Gianni, che questo episodio ti risulta? No, non ho in mente che sia stato bruciato un bel niente. In compenso, sia il governo Prodi sia il governo Berlusconi hanno fatto dei provvedimenti per togliere le intercettazioni, per limitare le intercettazioni, per limitare fortemente le intercettazioni. In questa non c'è grandissima differenza tra governi di centrodestra e governi di centrosinistra. Però deve ancora essere approvato, no? Deve essere ancora approvato, non è stato approvato durante il governo Prodi, ma addirittura io nella introduzione al libro faccio la storia di questa ossessione dei politici italiani: togliete le intercettazioni perché sennò ci beccano. Ed è un'ossessione dei politici di destra e di sinistra. E il primo provvedimento per limitare le intercettazioni è del 1996, primo governo Prodi, ministro Flick. Quindi devo dire una cosa trasversale, destra e sinistra. È la classe politica che dice: siccome le intercettazioni sono uno strumento efficace per beccare le malefatte e i reati, toglieteli perché sennò beccano anche noi. Allora, mentre intanto aspettiamo le prossime telefonate al numero verde 800 24 00 24, c'è mi pare Daniele da Piacenza, poi c'è Michele da Novara, io vi sintetizzo, come al solito faccio questo sforzo un po' impossibile di raccontare qualche titolo di notizia di questa settimana, così se magari non vi vengono in mente immediatamente qualche suggerimento può venire da questa sintesi impossibile, come dico io. Qui intanto è stata una settimana di grandi vertici, no? C'è stata la conferenza delle Nazioni Unite, dove Obama ha parlato del fatto del disarmo nucleare mondiale, c'è stato questo accordo, si è parlato di economia, di concordare insomma un'economia sostenibile per tutti i paesi, si è parlato di Medio Oriente, poi il monito anche col G20 all'Iran sulla sua proliferazione nucleare, anche se Ahmadinejad continua a essere diciamo un po' fermo sulle sue posizioni. Poi il caso Anno Zero, la trasmissione che ha fatto tanto chiacchierare, che poi ha avuto degli ottimi risultati di ascolti. Poi ieri il ministro dello sviluppo economico Scajola, che ha detto: convocherò i vertici RAI perché quella trasmissione insomma è stata spazzatura, si è puntata sulle porcherie, eccetera eccetera. C'è stato poi il via alla finanziaria leggera per quest'anno, la manovra 2010, lo scudo fiscale allargato che ha creato molte polemiche, poi anche quel botta e risposta tra Antonio Di Pietro e i due presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani. A proposito di evasione fiscale, si è scoperto insomma le fiamme gialle nella lotta all'evasione fiscale internazionale, che ci sono anche tra gli evasori, coloro che portano illegalmente capitali all'estero, anche diversi sportivi, tra cui ciclisti e campioni di Formula 1. Il processo al senatore del PDL Dell'Utri, il procuratore generale nella sua requisitoria in questi giorni ha detto: mangano, era a casa Arcore da Berlusconi non per interessi agricoli, per mantenere la tenuta insomma, ma perché era come un emissario insomma dei boss a casa Arcore. Poi la strage di Erba ritorna a far parlare di sé perché Olindo e Rosa, adesso che sono in carceri separati, hanno chiesto di avere una cella matrimoniale, e qualche giudice si sta interessando perché dice: perché mai dovrebbero essere separati, sa, a volte per queste delicatezze. Ma comunque, per quanto riguarda l'AIDS, questo vaccino che aprirebbe nuove speranze, che ridurrebbe il rischio di contagio del 30%, poi voglio fare una domanda a Gianni Barbacetto, che magari se ne intende più di me su questa cosa qua. Il Fatto Quotidiano, è uscito questo nuovo quotidiano, direttore Padellaro e figura centrale sicuramente Marco Travaglio, che sembra nelle prime uscite abbia avuto grande successo. Il caso Briatore, che è stato radiato dalla Formula 1 a vita, voi cosa pensate? Che sia una vittima, uno che insomma è stato diventato un capro espiatorio, insomma che bisogna comportarsi correttamente anche nello sport, anche dove circolano miliardi e miliardi. E poi una buona notizia pulita dello sport ciclismo, i mondiali di ciclismo che si stanno svolgendo a Mendrisio in Svizzera, hanno visto l'azzurra Tatiana Guderzo vincere per distacco la prova su strada femminile e medaglia d'oro. Un'azzurra e medaglia d'oro nei mondiali di ciclismo. Ecco con voi sempre Roberta Giordano per ascoltare quali sono le cose che vi hanno colpito in questa settimana. Diventa un po' una specie di bilancio, di consuntivo, condito ovviamente delle opinioni libere, delle riflessioni indipendenti delle ascoltatrici e degli ascoltatori. E con me c'è Gianni Barbacetto, che è giornalista, collaboratore di Repubblica, ha lavorato al Mondo, all'Europeo, a Diario, ha scritto qualche mese fa Se telefonando, le intercettazioni che non leggerete mai più. Mi pare che stia uscendo tra l'altro un altro tuo libro. Sì, esce a fine mese, il 30 settembre, si intitola Il Grande Vecchio. Bello, eh? Qualche dubbio a chi ti riferisci, si può dire? No, è la storia dell'eversione italiana, da Piazza Fontana alla P2. E adesso il 12 dicembre saranno esattamente 40 anni dalla strage di Piazza Fontana. Allora ho fatto raccontare ai magistrati che hanno fatto le indagini da Piazza Fontana, Gladio, alla P2, alle altre stragi, alle eversioni, tentativi di colpi di Stato, cioè quella che viene chiamata l'eversione nera nel nostro paese, raccontata dai protagonisti, dai magistrati che l'hanno indagata, perché 40 anni dopo la strage di Piazza Fontana, 20 anni dopo la caduta del muro, ancora non riusciamo a capire bene che cosa è successo. I misteri italiani, ma su questo sarà un'altra puntata. Adesso concentriamoci di nuovo sui fatti della settimana. Dicevo, c'è Daniele da Piacenza. Buongiorno. Buongiorno Daniele. Buongiorno, saluto il suo ospite. Sì. Ho captato al volo l'intervento dell'autore del libro, non avevo capito il suo nome. Gianni Barbacetto. Anticipo che lo acquisterò per leggerlo. Io sono un po' di parte, nel senso che di mestiere mi capita di assistere coloro che sono sottoposti a intercettazione, quindi penso che abbiate capito che lavoro svolgo. Sono un po' preoccupato perché l'esempio fatto da Barbacetti è un po', a mio avviso, pericoloso, cioè paragonare l'intercettazione alla risonanza magnetica. Daniele, faccio solo questa precisazione, poi così dopo chiudiamo su questa cosa. Mi raccomando, del libro dei miei ospiti io parlo pochi minuti e poi si parla delle notizie della settimana, e questo è il cuore della mia trasmissione. Un flash velocissimo. Sì. La risonanza magnetica, a mio avviso, è uno strumento fondamentale che consente di partire per arrivare al risultato e fare delle diagnosi. Le intercettazioni telefoniche non sono la partenza, sono uno strumento di indagine, ma io prima devo avere delle indagini a mia disposizione, perché altrimenti ci mettiamo all'angolo di una strada con una parabola, ascoltiamo tutti i discorsi e poi decidiamo chi inquisire. Quindi il sistema accusatorio processuale è ben chiaro, quindi altrimenti facciamo un passo indietro e ritorniamo alla Santa Inquisizione. Grazie Daniele, scusami, e poi con Daniele chiudiamo questo argomento perché non è un fatto della settimana. Ti do proprio brevissimo diritto di replica, Gianni, ma proprio breve, pochi secondi, no, perché sennò stiamo su questo argomento. Avrebbe ragione l'ascoltatore se fosse così, cioè se si intercettasse a raffica, a strascico, così casualmente. No, per intercettare una persona bisogna avere degli indizi, questa deve essere già indagata, altrimenti non è possibile, non si può indagare chiunque. Comunque, non siamo tutti intercettati, come è stato detto. Oh, passiamo ad altro, spero, con Michele da Novara. Michele. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ascoltatori, e complimenti per la trasmissione. Grazie Michele. Complimenti anche per la tua radio, che sento funziona bene, ma annullala se vuoi, perché si sente tutto il riverbero. Certo, grazie. Certo. Niente, volevo porre la domanda per quanto riguarda quello accaduto, che è successo in Calabria. Sì. Tu sei calabrese, dire, Michele? Diciamo che sono della zona, sì. Sì. Ecco, praticamente anche anni fa praticamente già si sentivano queste voci, che c'erano queste navi che insomma erano state messe lì nel mare, praticamente il popolo, i cittadini giravano queste cose alle orecchie, no? Ma voglio dire, da quanto tempo che è successo? È possibile che solo ora... Sì, Michele, è una vicenda, ti ringrazio per l'aver ricordato, perché è un fatto veramente tra i tanti che riguarda l'Italia e non solo, ma il mondo intero, che lascia senza parole, perché ci fanno capire come ogni tanto vengano fuori delle cose che ci sono, che sono, hanno anche dimensioni enormi e che noi ignoriamo, che a volte vengono fuori per caso. Per questa vicenda in particolare, in realtà pare che dagli anni Ottanta la criminalità organizzata stia affondando navi piene di veleni, di sostanze tossiche, radioattive, un po' in tutto il Mediterraneo, e per quanto riguarda noi più strettamente, diciamo, italiani, molto intorno alla Calabria, sia sul litorale del Tirreno sia su quello ionico. E in questi giorni è ritornata un po' alla luce questa inchiesta, addirittura sembrerebbe che, oltre ad aver affondato vari veleni, perché poi questo è un business che pare fosse iniziato prima come un'azione, un'attività legale negli anni Ottanta, poi qualcuno l'ha annusato che potesse essere un business, e con la Somalia, altri paesi in Italia, all'estero, insomma, ha cominciato a impadronirsi di questa come un'attività lucrosa, ecco, quella di affondare veleni che provenivano da varie parti nel Mediterraneo con le navi. Dicevo, di recente sembra che si sia scoperto che anche qualche essere umano potrebbe essere stato affondato insieme a questi veleni. Che dici, Gianni? Beh, questo vedremo. Perché, come diceva l'ascoltatore, ancora. Però ritorna, perché quel pentito Fonti ha riparlato in questi giorni, ma è qualcosa che si sa da diverso tempo, no? Sì, ci sono state inchieste giornalistiche che da anni ripetono che ci sono queste attività. Addirittura le ipotesi che sono state fatte per la morte della giornalista Ilaria Alpi, sì, in, certo, Somalia, erano proprio legate alla, e del suo operatore, no, sì, televisivo. Sì, erano proprio legate al business dei rifiuti, business segreto dei rifiuti, business internazionale in cui le organizzazioni mafiose, l'Andrangheta in particolare, hanno le mani. Adesso l'attualità è data dal fatto che un collaboratore di giustizia dell'Andrangheta ha raccontato questa cosa, ha detto: andate a vedere, anzi lui lo diceva da tanto, sono andati a vedere e hanno trovato una nave. Quindi, diciamo, c'era per la prima volta la prova di una cosa che non era non è un grande complotto, come che però ce ne sono decine, tra l'altro, sembrerebbe, questo, tutto il Mediterraneo. Questo è quello che si racconta. Bisognerà sempre aderenti ai fatti, bisogna andare a vedere e vedere se non sono chiacchiere ma sono davvero realtà. 800 24 00 24, stiamo cominciando allora a toccare diversi argomenti. Vediamo che cosa, su quale notizia vuole ritornare di questa settimana Viviana da Bologna. Buongiorno Viviana. La ringrazio di avermi richiamato. Viviana, ti chiedo subito una cosa che a volte, sì, mi incuriosisce. Qualche ascoltatore dice: ma forse è meglio così, forse è meglio. Se io ti do del tuo e tu mi dai del tuo, è un problema? Certo. Preferisci? Ah, benissimo. Grazie Viviana. Grazie, simpaticissima. Senti, io, sì, a proposito di veleni, sì, volevo riflettere un attimo sulla dichiarazione di Brunetta, il ministro Brunetta. Sì. A proposito degli orchestrali, si, sì, parla tanto di giovani, di formazione, di qualità e di Europa. Io vorrei denunciare una situazione di un teatro italiano dove a dei giovani al di sotto dei 25 anni che sono già professori d'orchestra non si dà la possibilità di mettersi in aspettativa per studio, per formazione e per preparazione a concorsi internazionali, andando oltre al contratto nazionale, e non si chiamano gli attori. Quindi una situazione di stallo che non permette ai nostri professori di migliorare la loro formazione. Viviana, tu citi Brunetta perché ultimamente si, certo, è espresso anche sulla, certo, differenza tra la cultura e il cinema. Certo. E quindi volevo sapere il tuo ospite cosa ne pensa di questa situazione. Dello spettacolo in genere, della cultura, del teatro, certo, della musica. Certo. Grazie Viviana. Grazie a te. Grazie. Che dici, Gianni? Cosa ne pensi? Hai sentito? Ricordo che Barbacetto in questi giorni, soprattutto in occasione del Festival di Venezia e di alcune polemiche, credo con il regista e attore Michele Placido, abbia detto: la cultura è una cosa, lo spettacolo è un'altra, è divertimento, è passatempo, è tempo libero, e quindi, insomma, non per forza deve avere finanziamenti che richiede, perché no, insomma, le proteste vanno avanti da un po' di tempo da parte del mondo dello spettacolo e della cultura. Si ritiene che sia cultura, l'arte, però ci sono dei distinguo per quanto riguarda Brunetta. È complicato, Brunetta non è sempre sobrio nelle sue dichiarazioni, sta inseguendo un po' lo stile Sgarbi, no? Ogni tanto le spara un po' grosse, ma al di là di quello è vero che è un problema reale quello della cultura e dello spettacolo, perché da una parte i soldi dello Stato sono necessari, perché senza soldi pubblici una parte della cultura morirebbe. Perché la cultura è un bene, che è un bene di tutti i cittadini, che non fa necessariamente soldi. Cioè, il teatro, per esempio, senza finanziamenti morirebbe. Allora, è bene che una comunità finanzi la propria cultura? Io credo di sì. Dov'è il trucco? È che se poi viene finanziata della robaccia, o se viene finanziata perché soltanto per amicizie, rapporti, eccetera. Quindi stiamo eccetera, parlando di questioni di qualità, insomma. Sì. Scevre da raccomandazioni, possibilmente. Se vengono raccomandate le veline amiche di qualcuno per farle lavorare nelle fiction radio televisive, come è successo recentemente, allora non capisco di cosa. No, non mi pare giusto. È un discorso complesso, dici, quindi in parte appoggi cosa diceva Brunetta. Bisognerebbe vedere di volta in volta. Sentiamo Ermanno da Firenze. Salve, buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto complimenti per il vostro network, cioè la radio sintonizzata sempre in macchina fissa, è sicuramente il più intelligente e meglio fatto. Grazie Manu, ma anche di notte, c'è le fisse alla radio, no? Dormi. Ma io faccio un mestiere che lavora tutte le ore, sono un medico e torno, vado in ospedale giorno, notte, quindi la sento sempre. Senti Ermanno, scusa se io ti interrompo e vado su prima, ma posso darti del tu? Ma volentieri, con grazie, piacere. Grazie, allora reciproca la cosa. E volevo chiederti, a volte io posso dire sinceramente, guardo i medici con una certa diffidenza, no? Avrei voglia che fossero, che facessero il loro mestiere, come dicono certi giovani che si avvicinano a medicina all'inizio, agli esordi, dicono lo faccio perché voglio aiutare il prossimo, per me è una passione, non mi importa di non dormire, eccetera, per me insomma gli altri sono importanti. Tu immagino che sia un po' di anni che fai il tuo mestiere, sei rimasto con questa indole? Ma dunque, facciamo un discorso chiaro. Io ho 58 anni e faccio il chirurgo, quindi è una delle specializzazioni più dure, anche perché noi siamo fra i pochi ai quali rimane il cerino in mano e quelli che devono decidere, e ne sono ovviamente anche responsabili. Certo. Diciamo che quando uno è ragazzo parte con l'idea idealista di salvare l'umanità, idealismo, eccetera. Diciamo che col tempo è un po' come, credo, come il pittore che ha già venduto il suo quadro, ora tenga presente che parlo di vendita, ma io lavoro nella sanità pubblica a Firenze, e magari ha già venduto il suo quadro e aggiusta il particolare, l'ombreggiatura, anche se il quadro l'ha già venduto, e non cambia il prezzo. Perché? Perché alla fine quello che conta è la vanità, è il lavoro di se stesso, come credo anche lei come giornalista, sì, lo fa per gli altri. Sì, per anche informare. Se non ho a che fare con le vite umane, ecco, diciamo. Non faccio, ma il concetto è lo stesso, noi siamo tutti professionisti, che si deve lavorare bene, questo senz'altro, con un obiettivo, però anche con l'autosoddisfazione personale, dire oh guarda come sono stato bravo, guarda come mi sono piaciuto, come lei quando fa una bella trasmissione, una trasmissione magari che a lei sembra così e così, ma il pubblico l'ha gradita lo stesso, bene, lei sa l'autocritica di quando si è piaciuto o meno compiaciuto, e questa è la molla dopo anni che manda avanti e garantisce. No, quello senz'altro, se poi si fa guarire una persona e si fa anche bene il proprio lavoro, non si fa una cosa raffazzonata, quello è fondamentale. Immagino, perché ecco, che sia una questione di responsabilità. Ermanno, perdonami se ti ho preso questo tempo, se tu hai ancora pazienza, ci sentiamo questa piccola pausa che di questo. Ermanno, scusa? L'altro. Per quando avete trasmesso la prima volta, l'ho risentito ora, l'inno a Silvio, che mi sono dovuto accostare con la macchina e tenermi la pancia dalle risate. Senti, aspetta, allora. Siete sempre lì? Spero di sì, ascoltatrice e ascoltatori. Abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme, per sapere quali sono le vostre notizie della settimana, quali sono le opinioni che volete esprimere in piena libertà, in qualsiasi direzione vadano, purché sia su un fatto della settimana. Sempre Roberta Giordano con voi, il mio opinionista estemporaneo di oggi, Gianni Barbacetto, giornalista, autore di Se Telefonando, le intercettazioni che non leggerete mai più, pubblicato da Melampo, adesso in uscita con un prossimo libro, collabora con diversi giornali, tra cui Il Fatto. Il Fatto Quotidiano, che citavo prima, che tra i fatti di questa settimana, scusate il bisticcio di parole, perché era stato annunciato da tempo ed è uscito il 23 settembre il primo numero, un quotidiano, e con grande successo sembra. E Gianni, tu collabori anche per sì, il Fatto, sì, no? Sì, scrivo anche per il Fatto, sì. Allora, 800 24 00 24, c'era Ermanno da Firenze che ho sospeso per un attimo, scusami Ermanno, mi interessava un po' parlare della tua professione di medico. Allora, a dice... proposito del Fatto, faccio una parentesi, così chi mi ascolta, il giornalista, il suo collega, a Firenze io dal primo giorno sto cercando di comprarlo, no, arrivo alle 9:30, manco più una copia. E già esaurito. Fate voi. Gianni, arriveranno sì. poche copie o lo comprano in troppi? Cos'è? Il primo giorno erano state stampate 150.000 copie, sono andate tutte esaurite in poche ore. 240.000 mi poi sembra poi la tiratura è stata raddoppiata e... Pare che è stato un successo insperato. Ma datene qualcuno di più a Firenze perché non si trova più. Comunque, insomma, che facciamo gli auguri come per qualsiasi iniziativa editoriale che esce nuova. Allora, Ermanno, dicevi che però il tuo Fatto, la tua notizia della settimana era un'altra. No, era un'altra, che io stavo così commentando scherzosamente che l'altra sera sentivo, mi pare o ieri o ieri l'altro, l'inno a Silvio. Mentre ero in macchina ho dovuto fermare e prendermi la pancia delle risate perché è sicuramente esilarante, nonché patetico. Facevo una semplice considerazione. Se io fossi il Presidente del Consiglio sicuramente promuoverei una causa di diffamazione, perché lei della sobrietà di quella che dovrebbe essere la mia carica istituzionale, nonché il prestigio della persona, ma peggio ancora, potrebbe instillare in qualcuno il sospetto che io ne fossi anche compiaciuto. E magari, già che ci sono, promuoverei anche un'inchiesta o, meglio ancora, se possibile, un'indagine per scoprire se dietro i promotori dell'iniziativa non si siano nascosti per caso dei giornalisti di Repubblica o dei biechi comunisti che fanno finta di essere miei sostenitori. Una serie di guai per l'autrice di questo inno, capito? Tu prevedi, Ermanno? Vabbè, poi insomma deciderà il Presidente del Consiglio. Grazie, Ermanno, e fai sempre con grande passione il tuo lavoro, allora, se te lo posso dire, augurare. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, ciao Ermanno. Allora, sempre il numero verde 800 24 00 24, c'è Gianni da Pisa, Barbara da Milano, Vito dalla provincia di Milano. Mi pare che ci fosse adesso fosse il turno di Barbara. Barbara. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io volevo intervenire per il discorso di Taranto, delle famose quote rosa, dell'intervento della giunta che è stata azzerata, esatto, di centro-sinistro, esatto. Perché erano tutti uomini, anche se in varie parti d'Italia sono tutti sì, uomini. Ma assolutamente, sì. Ma come in tutte le professioni, cioè stiamo parlando di quello, ma in realtà abbiamo un paese che è tutto al maschile, quindi io mi domandavo, sì, benissimo per la decisione del TAR, ma la mia domanda è perché non risolviamo il problema al monte, cioè che le donne non si possono dedicare a delle professioni perché non c'è il sostegno, diciamo, alla famiglia. Come fa una donna ad intraprendere una professione se poi questo per lei significa rinunciare alla famiglia, ai figli e a tutto il resto? Ci sarà un motivo per cui noi le donne siamo tutte tagliate fuori da tutte le professioni? Questo è un caso su tutti, ma parliamo dei manager. Quanti sono i manager? Quanti sono i parlamentari? Hai ragione, Barbara, però qui il problema è doppio, rimani pure in linea. È doppio nel senso che da una parte è vero che le politiche sociali del nostro paese latitano, si parla continuamente di famiglia, la famiglia, il sostegno della famiglia, la famiglia, la priorità, eccetera, e poi non si vedono queste grandi misure a sostegno soprattutto delle donne. Aspetta, scusa Barbara, che sono quelle che si tengono i due pesi esterno e interno sulle spalle tutte e due. Questo è uno dei problemi. L'altro problema è che c'è sempre il famoso tetto di cristallo, cioè gli uomini non ci tengono a condividere le loro cariche di potere con le donne. Continua a esserci, no, questo gap, questa discrepanza. La base è che se le donne si sentissero più incentivate, anche più sostenute, probabilmente avrebbero anche più tempo di fare questa lotta tra virgolette contro gli uomini che tendono a coprire tutte le cariche di un certo prestigio, di un certo potere. C'è da dire che se nel momento in cui la donna si trova a scegliere tra figli, carriera, è chiara la decisione, giusto? Quindi è chiaro che se ci si guarda intorno alle donne di potere, alla fine sono donne realizzate nella famiglia, solitamente no, è molto raro, sono separate, con figli, con situazioni problematiche. Quindi facciamoci la domanda a monte, va benissimo questo intervento del TAR, però cosa risolve alla fine? Certo, niente, delle politiche di sostegno, ma dall'altra, Barbara, è una questione anche di cultura, di mentalità. Una donna che voglia arrivare, che ha certe ambizioni legittime, che ci mette tanto impegno, professionalità, competenza, serietà, anche fosse, immagina, libera, diciamo, tra virgolette, da famiglia, non ha figli, eccetera, comunque la si blocca. Comunque c'è una discriminazione continua in Italia e anche nel resto dell'Occidente. Ci sono paesi molto più avanti, mi viene in mente la Francia e molti altri, la Germania, i paesi scandinavi, non ne parliamo. Quindi quindi diventa anche proprio una questione di mettere i bastoni tra le ruote, che è una questione diversa anche dalla questione oggettiva del scegliere tra famiglia o... Che dici? Grazie intanto Barbara che hai riportato su questo argomento. Diceva la nostra marziana da Marte, a volte forse sarebbe meglio mettere dei manichini con delle forme femminili, allora in una, almeno sembra che ci sia una rappresentanza, ma dice, beh, ci si ricorda che ci sono anche le donne. Gianni? Io condivido tutto quello che ha detto Barbara, è vero, una donna per riuscire a fare una cosa deve essere addirittura più brava degli uomini. 10 volte dice qualcuno, sì, più brava di un uomo. Perché sì, altrimenti non ce la fa. Oggi poi c'è una novità da questo punto di vista, e cioè il fatto che emergono alcune donne, per esempio anche in politica, ma emergono non sempre per i meriti, ma per il fatto che sono decorative, cioè, e questo credo che non sia una bella cosa e non sia un successo né per gli uomini né per le donne, cioè a volte si fa spazio ad alcune donne, ma soltanto per mettere una decorazione, qualcosa di gradevole, sì, ecco, perché cioè, gli uomini gradevoli dall'aspetto, soprattutto in politica, non mi sembra di intravederne. Insomma, è il velinismo che arriva in politica. Io credo che sia una cattiva notizia per la politica e anche per le donne. 800 24 00 24. Allora, continuiamo un po' con le vostre voci diverse, con le vostre opinioni diverse su fatti differenti di questa settimana. Sentirei Vito dalla provincia di Milano. Vito. Sì, buongiorno. Io mi sono un po' risentito quando ad inizio trasmissione avete annunciato che alcuni sportivi e avete sottolineato ciclisti come quelli dell'automobilismo, Rebellin, sono per stati esempio beccati dalla Guardia di Finanza per aver esportato oppure non dichiarato dei guadagni in Italia. Io mi risento perché si continua a mettere il punto all'indice il ciclismo, quando abbiamo un calcio che in quanto nefandezze può dare lezioni al ciclismo e a tutto l'altro sport, perché se nel ciclismo i corridori che guadagnano qualcosa sono pochissimi e li possiamo contare sulle dita di una mano in Italia, io le posso dire che ci sono un centinaio di corridori professionisti che non guadagnano 1000 euro al mese, e ce ne sono anche 20 o 30 che addirittura di stipendio non ne prendono. Allora sarebbe opportuno, secondo me, lasciare un po' stare il ciclismo, perché è uno sport degno di considerazione e che ha portato tanto onore e gloria all'Italia. Hai sentito di questa medaglia d'oro adesso della ciclista? E certo, è una ragazza che non va in giro con la pancia di fuori, che non ha la faccia, il collo dipinto con i tatto, una ragazza che tutti vorrebbero avere per figlia, per fidanzata e per amica. Questo per fare differenza con certe altre persone che vengono portate in auge adesso in Italia. Però, tornando al ciclismo, ripeto, è ora di finirla da parte di tutti, di mettere all'indice questo sport, che ha bisogno invece di un sostegno affinché si riprenda per il bene di tutta la nazione, compresa anche l'industria. Sicuramente, Vito, quello che ti posso dire è che ovviamente si parla anche per quanto riguarda il mondo dello sport, perché evasori ce ne sono tra imprenditori, faccendieri e mille altri, però si parlava anche della Formula 1 di Vito Antonio Liuzzi, e poi per quanto riguarda il ciclismo tu dici si dà troppo addosso, è vero che per quanto riguarda questo sport, ma immagino anche il calcio in Serie A e molti altri dove si è particolarmente in vista questa storia del doping, forse ha un po' stufato anche tutti, perché sembra che non si possa più fare il ciclista, la ciclista, anzi no, per quanto riguarda le donne non mi sembra che sia venuto fuori niente, senza usare sostanze. Ecco, direi che è vero dall'esterno dare un'immagine diversa del ciclismo, ma il ciclismo stesso anche deve un po' fare un repulisti, come si dice, dentro se stesso. Grazie Vito. C'è adesso Loris dalla provincia di Padova, sempre il numero verde che vi ricordo 800 24 00 24. Sì, buongiorno. Loris, buongiorno a te. Allora, niente, volevo solo segnalare che qui in provincia, a Conselve in particolare, non arriva il quotidiano Il Fatto. In provincia di Padova non arriva proprio o non riesci a beccarlo quando vai tu? Non arriva, parlando con gli edicolanti mi dicono che le richieste sono molte, ma proprio per un discorso di distribuzione loro fanno richiesta e non è ancora arrivato. Poi solamente una cosa volevo dire. Scorrendo così sulle reti nazionali ho visto su Mediaset la pubblicità del giornale, siccome non è un detersivo, ecco, è un prodotto del genere, vorrei sapere se la stessa cosa non può essere fatta anche con gli altri giornali. Ma credo di sì, credo che sia una questione semplicemente di quanto si paga, non credo che ci siano veti in questo senso, Loris, che io sappia, che dici Gianni? Sì, credo che basta pagare e si fa la pubblicità. Il problema è che il giornale, essendo della stessa proprietà di fatto delle reti Fininvest, Mediaset, diciamo è una partita di giro, con una mano paga e con l'altra prende, e quindi essendo lo stesso gruppo, essendo la stessa famiglia, cioè, Berlusconi, sì. Grazie. Invece per quanto riguarda il fatto proprio per, siccome è un piccolo giornale fatto con pochi soldi e senza padroni, per scelta ha evitato di andare in tutte le edicole italiane, perché non può per ora sopportare i costi di una distribuzione così grossa, va soltanto nelle grandi città. Gli altri lettori possono abbonarsi e averlo quindi a casa in abbonamento, oppure anche in abbonamento online, e quindi già dopo la mezzanotte averlo nel computer in PDF. Gianni lo spiega perché è informato e anche perché, dicevamo prima, collabora con il Fatto. E da Padova, dalla provincia di Padova, con Loris ci spostiamo a Roma con Simone. Sento giusto la tua voce, Simone, poi dopo ascoltiamo le informazioni per chi viaggia. Ci sei, Simone? Sì, buonasera, eccomi qua. Buonasera. Roma ormai è sera fatta. Che dici, Simone? Beh, diciamo oggi è una bella giornata, c'è sole, non c'è vento, è molto piacevole. A Milano è un po' trista la giornata comunque. Allora, con l'alta velocità si arriva in fretta. Sì, l'alta velocità del treno, bene. Roberta Giordano sempre con voi. Non ci sono più le mezze stagioni, non ho chiesto ancora a Gianni Barbacetto per quale motivo, cos'è che conferma secondo lui questa cosa, magari ci pensi un attimo. Sì, Gianni, ci penso, va bene. E intanto però continuiamo a sentire Gianni Barbacetto, mio ospite, opinionista estemporaneo, come lo chiamo io, l'ospite ogni volta che c'è qui con me, giornalista, e appena ha pubblicato il libro Se telefonando, sulle intercettazioni che mai più, dice il sottotitolo, ascolterete. Eravamo con Simone da Roma. Sì, lui e il suo bel tempo, Simone. Allora, di cosa volevi parlare, Simone? Ma io volevo intervenire sulla candidatura del Premier Berlusconi al Premio Nobel per la Pace. Sì. Poi prima faccio un breve inciso su quest'ultima cosa che ho sentito dire da lei, cioè sulle mezze stagioni. Faccio presente che già Sant'Agostino diceva che sentiva le persone tutte dire continuamente: non ha mai fatto tanto caldo come quest'estate, non ha mai fatto freddo tanto freddo come quest'inverno. Però, è l'unica certezza che abbiamo nella vita e nel corso dei secoli, questa di parlare del tempo. Sono dei temi che ricorrono costantemente nella nostra storia. Meno male, è un segno di continuità. Gianni, smetti di giocare col telefonino che si sente. Grazie. A proposito di intercettazioni, è lì che sta intercettando. Esatto. Dimmi, Simone. Beh, sì. Noi siamo in radio, anche se ci intercettano non abbiamo nulla da nascondere. No, credo proprio diciamo, nulla. Prego. Quindi volevo dire, invece no, quanto alla candidatura del Premio Berlusconi, l'ho trovata un atto molto interessante da un punto di vista, insomma, per capire, cercare di capire perché hanno formulato questa candidatura e per le modalità con le quali è stata formulata, anche sono andato a cercare di capire chi può proporre una candidatura all'organismo, al Comitato per il Nobel per la Pace. Sono solo alcune figure prestabilite, tipo ad esempio membri di assemblee nazionali, quindi assemblee regionali per esempio, membri che appartengono insomma a tutta una serie di categorie che sono elencate nello statuto dell'organismo che poi concede questo. E fin qui la prassi, diciamo, tra virgolette, burocratica, il percorso da seguire, credo che sia venuto dal popolo questa cosa. Diciamo che solo alcune figure tipizzate in questo regolamento possono proporre una candidatura al Nobel, non i liberi cittadini, non i comuni cittadini. Lei e io, con tutto l'affetto reciproco, insomma, non possiamo purtroppo proporre il Premier per la cosa. Quindi che senso ha? Si lancia l'idea, Purtroppo, chi ha, perché coinvolgere i cittadini con un'adesione per supportare questa candidatura se le proposte fatte da cittadini sono non ammissibili? Che risposta ti sei dato, Simone? Ancora non si sono arrivata alla risposta, però sono andato poi a studiarmi lo statuto di questo comitato e ho trovato tutta una serie di cose interessanti. Intanto non so perché non indicano il domicilio dove è stato istituito il comitato, c'è scritto Omissis per ragioni di sicurezza, chissà perché. Poi dopo c'è scritto, siccome loro accettano anche oblazioni a copertura delle spese, hanno istituito un conto corrente bancario presso un istituto e quindi sollecitano, diciamo, l'adesione anche finanziaria dei vari cittadini, che lo sottolineo ancora una volta, non possono validamente proporre la candidatura, però gli chiedono di fare, diciamo, di sottoscrivere anche finanziariamente l'iniziativa. Ho notato anche che tutta una serie di deputati appartenenti tutti al Popolo della Libertà, beh, e questo è strano, chissà perché. Hanno sottoscritto naturalmente la candidatura, e quelle sono, diciamo, le sottoscrizioni che rendono peraltro accettabile la candidatura da parte del comitato. Poi ci sono alcune cose molto interessanti che, se andiamo a vederle, sono sempre sul sito dell'organismo Nobel. Simone, diciamo, facciamo una cosa, siccome il tempo stringe, perdonami, sì, tu vuoi dare questo indirizzo internet, così chi vuole andare a capire meglio? In questo momento non ce l'ho sotto mano, però basta mettere Nobel, comunque è un org, è punto org, perché essendo un suffisso diciamo di un'organizzazione non profit, paragovernativa, credo, non lo so. Comunque la cosa interessante è che nel 35 fu proposta la candidatura di Mussolini, nel 39 fu proposta la candidatura di Hitler al Nobel per la pace, naturalmente, e chi invece batte tutti e due le figure che ho appena nominato è Stalin, perché lui è stato proposto due volte, nel 45 e nel 48. Beh, diciamo che era una figura piuttosto in vista, qualcuno veniva questa straordinaria idea. Grazie Simone da Roma, poi per chi volesse approfondire va a vedere questo sito se lo trova. E tra pochissimo c'è Valeria Della Valle, io volevo chiedere se riesci, Gianni, a dire per quale motivo secondo te, cosa conferma che non ci sono più le mezze stagioni in due secondi? Battuta proprio. Oltretutto qui era tutta campagna, qui prima. Sì, sì, non solo qui dove c'è la nostra dove sede. C'è la sede della radio. Ma io credo che sia confermato il fatto che non ci sono le mezze stagioni dal fatto che non c'è più l'ipocrisia. Ah, non c'è più? No. Questa è una sorpresa però. No, è molto poca l'ipocrisia. Una volta, quando uno faceva una cosa che non andava bene, soprattutto se aveva una figura pubblica, se era un politico per esempio o un finanziere, un po' si vergognava, la faceva ma di nascosto. Oggi invece c'è una sorta di esibizione. La si ostenta. Sì, oggi si fanno le porcherie e le si ostenta. Meglio o peggio di prima, in una sola parola, in una sola risposta? Peggio, perché come dice il grande, l'ipocrisia è il tributo che il vizio paga alla virtù. Oggi non c'è più neanche questo tributo. Quel tributo. Niente. Senti, dimmi solo una cosa, se tu hai mai provato il caffè fatto coi chicchi vomitati da una donnola? Io non bevo caffè, sono un italiano anomalo. Ma lo scopriamo in questo momento. Io zero, non ho mai bevuto un caffè in vita mia, figurati se vomitato da una donna. Perché questo era, l'ho letto questa settimana all'interno di un libro, un manuale per il viaggiatore maldestro. In Vietnam mai rifiutare, come evitare le gaffe, mai rifiutare un caffè fatto con i chicchi vomitati da una donna, perché se la prendono... Ma sono buoni, malissimo, buoni, potrebbero sì. mettere così, ma povera donna si chiude non so, la fanno vomitare apposta. Vabbè, sorvoliamo e c'è, chiedo prima della nostra Valeria Della Valle, che mi perdonerà perché la faccio sempre essere una donna da Formula 1, Anna Maria da Milano, anche a te chiedo di essere da Formula 1, dimmi solo il tema e proprio un commento brevissimo, ci riesci Anna Maria? Scusami. Certo che ci riesco. Perdonami. Dunque, io ho visto la trasmissione di Anno Zero e non mi è parsa, io non capisco cosa ci ha trovato di scandaloso Scaiola. L'unica cosa veramente scandalosa mi è parsa l'attacco concentrico, e mi riallaccio a un altro tema, che con attacchi personali, non sulle cose, ma sulla persona, sono state fatte alla Concita De Gregorio. Tutto quello che ho trovato. Alla direttrice dell'Unità. Anna Maria, ti abbraccio proprio perché sei stata estremamente sintetica e ti ringrazio e chiedo scusa anche a Francesco da Alessandria, a Gianni da Pisa e agli altri ascoltatori che credo non riuscirò a sentire, perché Valeria non può mancare, la nostra Valeria Della Valle. La mia linguista della sapienza di Roma, la quale chiedo, ciao Valeria, ciao, a proposito delle frasi o delle espressioni, delle cose che ritornano un po' in questa settimana. Ecco, questa settimana mi viene in mente il clima, sia perché poi è legato sempre alla mia trasmissione, non c'era Giuliacci questa settimana perché è un matrimonio di un cugino, non mi ricordo, e però anche di clima si è parlato, con il grandissimo tema centrale, rischiamo la catastrofe, alla conferenza dell'ONU. Tu che lettura dai, clima? Guarda, diciamo in questi 35 secondi. Ripercorrerò la storia linguistica di secoli in pochissimi pochissimi minuti. E intanto la parola clima, facciamo un momento la storia, inizialmente viene dal greco clima, climatos, all'inizio aveva solo il significato di inclinazione della terra dall'equatore ai poli, poi è passata a indicare una zona geografica, una latitudine. Dante Alighieri, il nostro amato Dante, la usava quel significato di fascia dell'emisfero abitato. Bisogna arrivare al 500 e abbiamo un esempio proprio in Torquato Tasso perché la parola assuma il significato di proprio condizione atmosferica di una regione. E poi ancora andiamo un po' più avanti, Galileo Galilei come la usa? La usa nel significato di insieme di condizioni e situazioni politiche, culturali di un ambiente, di un periodo. Quindi ecco, siamo culturale. Già passati, ecco, clima culturale, naturalmente lo si può usare poi riferito a arte, a cinema, a teatro, ecco che siamo passati al significato un po' di atmosfera, no? Anche nel linguaggio familiare possiamo dire, ma oggi sei stato a lavorare, che clima c'era? Indichiamo l'atmosfera. E allora, per proprio battere sul tempo e finire col solito pensierino conclusivo, io concluderei così, che ci si può occupare del clima, come tu dicevi, ci sei occupata in questa occasione così importante, ci si può occupare, ci si può dedicare al clima nel senso appunto delle condizioni atmosferiche solo se c'è un clima favorevole nell'altro senso, cioè clima nel senso politico. Ecco, e mi fermo qua. Grazie, guarda, ti adoro Valeria della Valle, farò una maglietta con adoro Valeria della Valle perché è sempre una donna di grande intelligenza, di grande sintesi. Grazie a Valeria, poi ringrazio naturalmente la parte tecnica, c'è Carmelo Lauricella che ha seguito con grande vigilanza e attenzione, e poi Valeria Coffaro, senza di lei le vostre telefonate, tutto veramente un delirio di telefonate, non sarebbe potuto arrivare e confluire qui alle nostre vostre orecchie. Gianni Barbacetto, vuoi fare un commento, una chiosa proprio, che diresti a tutto questo? Bisognerebbe tornare alle mezze stagioni, io vorrei, vorrei le mezze stagioni, vorrei il ritorno dell'ipocrisia perché vorrebbe dire una rivalutazione della virtù, vorrei tornare alla campagna dove... Ahia, quella mi sembra che sia un po' difficile pure la campagna, Obama ha fatto delle buone promesse, ci sono stati dei buoni accordi, chissà, insomma, e anche il miglioramento del clima per l'appunto, per tornare non sarebbe male. Gianni Barbacetto, ringrazio anche te, le ascoltatrici e gli ascoltatori, quali chiedo sempre scusa se non c'è mai abbastanza tempo, insomma quelli sono i tempi. Io, Roberta Giordano, vi aspetto ovviamente sabato prossimo e vi ricordo che domani sono anche alle 19 con Federica Fornabaio, direttrice d'orchestra giovanissima, 24 anni, eccetera, eccetera. Intanto vi auguro sereni orizzonti.